In discussione le nuove norme di polizia per le manifestazioni di piazza dopo gli scontri di Roma durante il corteo dei lavoratori di Terni. Appalti pilotati per le concessioni delle spiagge, operazione contro la criminalità sul litorale romano, minacciata la famiglia di una giornalista già sotto scorta. Poche ore al voto negli Stati Uniti per le elezioni di metà mandato, democratici sfavoriti, ma 5 seggi sono troppo in bilico anche per i sondaggisti. Arriva anche in Italia l'abbonamento ai libri. Amazon lancia Unlimited, 10 euro al mese per avere a disposizione 700.000 ebook. La Juventus prova a scacciare il fantasma di una squadra forte in Italia e debole in Europa. Stasera la prova di Champions. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. Benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete, potete scriverci a effettogiorno@radio24.it oppure via SMS durante la trasmissione al 349-238-6666. In apertura, dunque, le nuove previsioni della Commissione europea e l'allarme per il debito italiano. La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'Italia, in un contesto economico sempre molto fragile. L'esecutivo comunitario si aspetta una contrazione del prodotto interno lordo dello 0,4% nel 2014 e un aumento di appena lo 0,6% nel 2015. Sul fronte del disavanzo, le previsioni di Bruxelles sono particolarmente negative. La Commissione vede un deficit al 3% del prodotto interno lordo nel 2014 e del 2,7% del prodotto interno lordo nel 2015. Torna quindi all'orizzonte il rischio di una procedura per deficit eccessivo. Il momento politico è delicato. Il governo Renzi ha presentato una finanziaria per il 2015 che non rispetta appieno le regole europee. Entro fine novembre la Commissione dovrà pubblicare un'opinione sul bilancio previsionale italiano. Non si può escludere che anche alla luce dei dati pubblicati stamani possa chiedere nuove misure di risanamento. Molto dipenderà anche dalle riforme strutturali che il governo italiano prometterà di adottare nei prossimi mesi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E la Commissione europea emette i suoi giudizi anche su altri paesi, sulla Germania in particolare dice che la crescita è deludente, per la Francia dice che il deficit 2016 sarà il più elevato d'Europa e arriva la risposta da Parigi, è un calcolo puramente teorico che non significa niente, parole attribuite all'entourage del ministro francese delle finanze Michel Sapin. La manovra italiana si diceva, il TFR in busta paga, dopo che Banca Italia ha dato un giudizio positivo sulla legge di stabilità, avvertendo però sui rischi dell'operazione TFR dal lato del trattamento pensionistico. Anna Marino ha intervistato Tiziano Treu, ex ministro del lavoro e oggi commissario straordinario dell'INPS. Ci sono dei motivi per dare possibilità di denaro fresco in tasca alle persone e quindi questa è la spinta a mettere la possibilità di metterlo in busta paga. Però c'è dall'altra parte il rischio che questo prendere, per così dire, l'uovo oggi pregiudichi la gallina domani, cioè la previdenza complementare che invece è necessaria soprattutto di fronte a una previdenza pubblica che darà meno di una volta. Per questo mi sembra importante che il provvedimento sia temporaneo. 3 anni per far fronte all'emergenza, ma poi si riprenda il corso normale di un TFR destinato alla previdenza complementare. Questa mi parrebbe la soluzione più equilibrata. Però, secondo anche Banca Italia, è meglio migliorare la trasparenza delle regole pensionistiche per consentire appunto maggiore consapevolezza ai lavoratori in questa opzione. Non è compito dell'INPS la previdenza complementare, però per la previdenza di base entro l'anno sarà data questa avvio a questa busta arancione cosiddetta che renderà consapevoli le persone di quali sono le loro possibili prestazioni pensionistiche in modo da spiegargli cosa avranno e quindi anche da mostrargli l'utilità della pensione complementare. Ipotesi volontaria, come sapete, questa del TFR. Ebbene, arriva in questi minuti la reazione di Rete Imprese Italia, nelle parole di Cesare Fumagalli, che è rappresentante di Rete Imprese Italia in audizione sulla legge di stabilità, dice: facciamo il tifo perché il TFR non funzioni, sarebbe una botta di impoverimento per le piccole e medie imprese, per noi sarebbe un disastro. Torniamo adesso sul caso di Stefano Cucchi, perché ad intervenire oggi è stato anche il presidente del Senato Grasso, in diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, proprio così, Simone, è intervenuto il presidente del Senato Piero Grasso. Chissà parli, dice la seconda carica della Repubblica, lo Stato non può sopportare l'impunità. Grasso quindi lancia un appello, ci sono rappresentanti delle istituzioni che sono certamente coinvolti in questo caso. Chissà parli, che si abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. È doverosa e giusta, prosegue poi Grasso, la solidarietà alle vittime delle famiglie, scusate, alle famiglie delle vittime di violenza. La violenza non può far parte della dignità di uno Stato civile e dalla Procura Generale di Roma arrivano i primi segnali. Si valuterà infatti la sussistenza di motivi per ricorrere in Cassazione, ma solo dopo aver letto le motivazioni della sentenza di assoluzione in appello degli imputati. Il Procuratore Generale della Capitale, Luigi Ciampoli, spiega che la Procura Generale di Roma esaminerà con la lettura della sentenza la motivazione della Corte d'Appello e poi semmai ricorrerà. Ricordiamo che per la morte di Stefano Cucchi in appello nessuno è stato condannato. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. È la minaccia del terrorismo al centro del messaggio di questa mattina del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giorno della festa delle Forze Armate. La corona d'alloro all'altare della patria, l'omaggio al milite ignoto. Il capo dello Stato ha onorato così la festa delle Forze Armate. Nel giorno dell'unità nazionale il presidente Napolitano ha messo in guardia dalla nuova e grande sfida di fronte alla quale, ha detto, le forze armate devono operare con sempre maggiore efficacia. Il quadro internazionale mostra tensioni e instabilità crescenti. Si vanno affermando nuove e più aggressive forme di estremismo e di fanatismo che rischiano di investire i territori degli stati falliti e insediarsi a ridosso dei confini dell'Europa e dell'Italia. Una minaccia reale, secondo Napolitano, anche militare, che le forze armate devono essere pronte a contrastare insieme alla NATO e all'Unione Europea. Per il capo dello Stato, infatti, vi è il rischio che sotto la spinta esterna dell'estremismo e quella interna dell'antagonismo e sull'onda di contrapposizioni ideologiche prendano corpo nelle nostre società rotture e violenze di intensità forse mai viste prima. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Medio Oriente ora Israele annuncia la riapertura dei valichi con la striscia di Gaza, ma il punto, per rimanere anche in parte alle parole del Presidente della Repubblica, resta la tensione nella penisola del Sinai, in Egitto, dopo l'adesione di un gruppo jihadista al califfato islamico. Israele mette fine all'isolamento della striscia di Gaza. Il governo di Tel Aviv infatti ha annunciato che riaprirà i valichi con la striscia Erez e Kerem Shalom, chiusi venerdì scorso dopo il lancio di un razzo da parte dei palestinesi sull'onda delle tensioni per la spianata delle moschee di Gerusalemme. Sul fronte opposto resta chiuso il valico di Rafah con l'Egitto. Il governo del Cairo, in seguito ai numerosi attacchi da parte dei jihadisti nella penisola del Sinai, costati la vita a decine di soldati egiziani, ha disposto anche la creazione di una zona cuscinetto lunga 14 chilometri, larga 500 metri lungo il confine con Gaza. Una misura che il presidente Morsi ha deciso di rafforzare alla luce dell'adesione allo Stato Islamico del gruppo terroristico Ansar Beit al-Maqdis, con base proprio nella penisola del Sinai. Il comunicato del gruppo arriva poche ore dopo quello dell'ISIS, che aveva annunciato la creazione del califfato in Sinai, definendola il primo passo verso l'invasione di Gerusalemme. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo all'estero e andiamo negli Stati Uniti, dove si va al voto per le elezioni di metà mandato. Cadrà anche il Senato nelle mani dei repubblicani. È alta l'attesa negli Stati Uniti per le elezioni di midterm che potrebbero rendere Barack Obama un'anatra zoppa nell'ultimo biennio di presidenza, qualora anche la Camera Alta finisse al partito dell'elefante. 36 seggi senatoriali, altrettante nomine a governatore e 435 seggi alla Camera sono in palio nelle elezioni di metà mandato, per le quali hanno già votato oltre 16 milioni di cittadini. Tutti gli occhi sono puntati su quella maggioranza di 51 seggi al Senato che consentirebbe ai repubblicani di controllare l'intero Parlamento dopo essersi già impossessati della Camera, rendendo la vita difficile al Presidente, non solo sulle proposte di legge da adottare, ma anche sulle riforme già varate. La battaglia potrebbe allargarsi qualora la Casa Bianca facesse un massiccio uso del veto presidenziale. Con Camera e Senato nelle mani repubblicane, Obama finirebbe con avere maggiori margini di manovra in politica estera che non in quella interna. I sondaggi aumentano l'incertezza, pur confermando un graduale scivolamento del Senato a destra, mentre Obama sconta una ripresa economica ritenuta ancora troppo lenta volontà a manifestarsi dall'elettorato generale e una mancata riforma dell'immigrazione che ha deluso invece la minoranza ispanica. Un malinconico viale del tramonto per un presidente che esattamente 6 anni fa veniva eletto per la prima volta a Chicago quale simbolo del cambiamento e della speranza al culmine della crisi finanziaria. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una buona notizia arrivata adesso, una bella notizia per l'Italia. L'italiana Fabiola Giannotti è stata nominata direttore generale del CERN di Ginevra, la prima volta che una donna è a capo del laboratorio europeo di fisica delle particelle. 52 anni, nata a Roma, ha studiato a Milano, è stata fra i protagonisti della scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, buongiorno. Buongiorno a lei. Avete presentato questa mattina i dati sugli incidenti stradali. Nel 2013 un calo soprattutto delle vittime, 368 in meno, il 10% in meno rispetto al 2012, con risultati rilevanti per alcune categorie di utenti come i ciclisti e i motociclisti, un meno 14 e un meno 14,5% rispettivamente. Da cosa dipende? Ma sicuramente stanno funzionando alcune campagne così di informazione, le strade diventano sempre più sicure, le automobili sono molto più dotate di stazioni di sicurezza che sta cominciando a produrre degli effetti. Qualcosa di buono c'è stato, certo non è che siamo soddisfatti, siamo, come devo dire, confidenti che la strada è quella giusta, ma bisogna fare molto di più, soprattutto se si considera che ancora ci sono le aree urbane, 1400 morti. Nelle aree urbane, quindi sono questi i luoghi dove prevalentemente si concentrano le vittime e gli incidenti? Ma non diciamo, sono il 42% rispetto alla totale dei morti, però che nelle aree urbane ci siano ancora in Italia 1400 morti, ci sono soprattutto pedoni, ciclisti, motociclisti, ma anche automobilisti, e qualcuno non ci crederebbe, in città quante gente non mette la cintura di sicurezza perché dice ma se mi può mai accadere in città, e invece in città, soprattutto nelle aree più periferiche dove c'è una strada più veloce, dove ci sono molti incroci a raso, a volte anche non semaforizzati, avviene l'uso laterale. E come le sa purtroppo l'ustraterale è quello che provoca il trauma cranico, con purtroppo molto spesso anche la morte. Ecco perché bisogna investire di più, soprattutto utilizzando quel famoso 50% che deriva dalla somma delle multe che i comuni incassano tutti gli anni. Attraverso quelle somme è possibile sicuramente per fare qualche rotatoria in più in periferia, a illuminare meglio qualche attraversamento pedonale e soprattutto investire in piste ciclabili che siano veramente sicure e protette. Grazie, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club Italia. Una notizia anche questa appena battuta dalle agenzie: un gruppo di precari e percettori di ammortizzatori sociali ha bloccato l'ingresso dei traghetti privati a Villa San Giovanni, e siamo in Calabria. I manifestanti si trovano ad alcuni metri dal piazzale Anas. La protesta sta creando disagi per i mezzi che devono imbarcarsi naturalmente per raggiungere la Sicilia. Sapremo darvi maggiori aggiornamenti più tardi. Adesso parliamo di tecnologia e di editoria, perché è arrivata oggi una novità importante che riguarda l'Italia e arriva da Amazon. I primi furono i ristoranti ad offrire ad un prezzo fisso la possibilità di mangiare tutto quello che si vuole. Poi ci ha pensato internet a trasferire la moda del all you can eat, tutto ciò che riesce a mangiare, all'intrattenimento digitale. Film o musica si possono consumare oramai all'infinito, o almeno su cataloghi di migliaia di titoli, ad un canone fisso mensile. Ora anche in Italia arriva Kindle Unlimited, che Amazon ha lanciato quest'estate negli Stati Uniti. 700.000 titoli, 15.000 in italiano tranne le ultime uscite, a disposizione sull'ebook reader per 10 euro al mese. Vedremo presto se piacerà ai lettori e se i concorrenti di Amazon seguiranno, vale a dire la giapponese Kobo e il neo arrivato Tolino, fra 2 settimane in Italia grazie a dbs.it. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio con la Champions League, torna in campo la Juventus. Destino strano quello in Europa della Juventus, che da un paio d'anni la sua finale di Champions se la gioca già in autunno. L'anno scorso a Istanbul col Galatasaray finì decisamente male. Epilogo da non ripetere stasera contro l'Olympiakos. Dopo il KO per 1-0 rimediato 2 settimane fa al Pireo, obbligatorio vincere. Meglio se con 2 reti di scarto, in un girone che vede Grecia e Atletico Madrid a 6 punti, Juventus e Malmo a 3. Gara che vale una stagione, spiega Claudio Marchisio. La prima partita fondamentale per la nostra stagione e giochiamo contro un avversario che non sarà sicuramente facile. Allegri sgombra il campo da alibi e paure. Bisogna rimanere sereni e non farsi travolgere da troppo peso a quello che dall'esterno viene detto che la Juventus è il complesso dell'Europa. Capitolo formazione, probabile il recupero di Ogbonna e Asamoah, ballottaggio Pirlo Vidal a centrocampo e tra Llorente e Morata a fianco di Tevez. Juventus Stadium, manco a dirlo, tutto esaurito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso una pausa per la viabilità, poi ci ritroviamo per tornare a parlare dei test di accesso alle specializzazioni di medicina. Parleremo anche con una giornalista del quotidiano La Repubblica, minacciata dalla criminalità organizzata sul litorale romano. È stata anche minacciata la sua famiglia. Oggi c'è stata un'operazione importante contro questa criminalità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'italiana Fabiola Gianotti è stata scelta come capo del CERN di Ginevra, direttore generale sarà, è la prima volta che una donna appunto è a capo del laboratorio europeo di fisica delle particelle. La Commissione europea lancia un nuovo allarme per i conti pubblici italiani, deludente la crescita tedesca, dicono da Bruxelles, TFR in busta paga, abbiamo intervistato il commissario Imstreu e dice sia una misura temporanea. L'estremismo è una minaccia reale, parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giorno della festa delle forze armate. Intanto gli jihadisti del Sinai aderiscono allo Stato islamico dell'ISIS. Uso di spray urticanti e idranti, evitare il contatto fisico, sarebbero queste le nuove norme di polizia per le manifestazioni di piazza dopo gli scontri di Roma. E un'ultima notizia prima di passare al prossimo argomento, anche qua appena battuta dalle agenzie, riguarda la vicenda di Brittany, la donna di 29 anni che ha deciso di togliersi la vita perché malata terminale. Arriva una prima reazione del Vaticano: il suicidio assistito è un'assurdità perché la dignità è un'altra cosa che mettere fine alla propria vita. Le parole sono del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Carrasco De Paula. Gianluca Scuccimarra, coordinatore nazionale dell'UDU, Unione degli Universitari, buongiorno. Buongiorno a lei. La soluzione scelta ieri dal ministro dell'istruzione Stefania Giannini dopo un consulto con l'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda i test per l'ingresso alle specializzazioni di medicina è stata di cancellare le 2 prove incriminate in sostanza. Insomma, su 37 di domande, 2 sono state sostanzialmente eliminate e non considerate. Come giudicate questa scelta? Ma totalmente parziale, perché di fatto va semplicemente a mettere una pezza anche molto approssimativa su questo test, senza andare a toccare nella sostanza quello che è il vero problema di un test che è stato molto falsato e che di fatto ha messo tutti gli studenti di fronte a forti lesioni dei loro diritti e a forti diseguaglianze. Secondo noi l'unica soluzione rimane sempre quella di una vera sanatoria. Una vera e propria sanatoria, dite, e in che formula? Le formule sono varie, quella principale è naturalmente quella del rifinanziamento di ulteriori borse di specializzazione, una boccata d'ossigeno tra l'altro non solo per gli studenti ma anche per il sistema sanitario che in questo momento ha fortemente bisogno di nuovi specializzati, quindi mettere nuovi fondi sulle borse di specializzazione, aprire un po' questo imbuto strettissimo che è l'ingresso nella professione medica. Prevede Scuccimarra che il Ministero abbia evitato ricorsi in questo modo o gli specializzandi ricorreranno lo stesso? Ma guardi, io credo che saranno in tanti comunque a ricorrere, perché comunque le situazioni assurde rimangono, anche perché c'è stato un completo cambio di rotta nell'arco di nemmeno 2 giorni e quindi bisognerà fare anche degli accessi agli atti per capire quanto sia fondato questo cambio di rotta effettuato dal ministro. Quindi sì, ricorreranno, probabilmente ne hanno evitati un centinaio ma su 2000. quindi lo stesso, la situazione assurda ci sarà e ci saranno ricorsi. Grazie a Gianluca Scucimarra, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari, e saluto Federica Angeli, che è una giornalista del quotidiano La Repubblica. Federica, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, questa mattina c'è stata un'operazione piuttosto importante per quanto riguarda la criminalità organizzata sul litorale romano, in particolare ad Ostia, che coinvolge tanto, come dire, uomini di malaffare che vivono di criminalità, quanto dirigenti pubblici per una serie di appalti che riguardano soprattutto gli stabilimenti balneari. Sì. Abbiamo voluto chiamare te perché tu, per aver indagato su queste vicende, sei sotto scorta. Purtroppo sì. E un anno, nel 2013, io scoprì, diciamo, questi intrecci tra la criminalità organizzata e proprio della famiglia Spada con la parte istituzionale, quindi il direttore dell'ufficio tecnico del municipio di Ostia. Andai nello stabilimento proprio di cui oggi parla questa ordinanza che ha portato 9 persone agli arresti, 3 in carcere e 6 domiciliari, e entrando, diciamo, in quello stabilimento mi trovai faccia a faccia con questo Armando Spada, che è considerato, diciamo, proprio nelle intercettazioni telefoniche anche emerge questo, uno dei clan, dei capi del clan della famiglia, appunto, Spada. E chiesi conto di come loro avessero ottenuto questa concessione, questo stabilimento in concessione, e quando si accorse della telecamera accesa, perché questa inchiesta la stavo facendo per il sito di Repubblica, passò alle maniere forti, come sono abituati loro a fare, e quindi mi disse: se non mi consegni il filmato io ti sparo in testa, non pago di questo. Mi sequestrò insieme a Cosimo Appeso, che è un luogotenente della Marina Militare, anche lui arrestato oggi, in una stanza per 1 ora e mezza, convincendomi del fatto che a Ostia comandavano loro, che avevano sempre comandato loro, e che quindi io non dovevo osare interferire nel loro clan, e quindi mi dovevo dimenticare della mia inchiesta, praticamente. A queste minacce, Federica, ne sono seguite altre? Sì, questa è stata la prima di una lunga serie. L'ultima, diciamo, in ordine di tempo è avvenuta 5 giorni fa, in cui, insomma, sono stati pesantemente minacciati di morte i miei 3 bambini, e sempre dal clan Spada, perché comunque non tollerano che io parli di loro, che ormai si siano accesi i riflettori su di loro, perché ovviamente si nutrono del silenzio e dell'omertà delle persone, cosa che ovviamente, cioè, non avranno mai da me. L'operazione di oggi rappresenta, Federica, una completa disarticolazione di questa struttura, o è solo, diciamo, l'inizio? Diciamo che questo, per quanto riguarda il clan Spada, è solo l'inizio, perché, diciamo, a scoperchiare tutto questo malaffare era già stata l'operazione della squadra mobile con 51 arresti dello scorso luglio, per cui già una bella batosta gli era arrivata ai clan che su Ostia la facevano da padroni. Del clan Spada questo è il primo arresto importante, perché gli hanno contestato, ovviamente, la DDA di Roma, la mafiosità, l'aggravante del metodo mafioso, quindi riuscire ad ottenere cose intimidendo le persone e pretendendo il loro silenzio è mafia, esattamente come è mafia Cosa Nostra, l'Andrangheta e la Camorra. Finalmente una procura riesce a cogliere questo aspetto che fino ad oggi purtroppo la magistratura capitolina non ha mai colto. Grazie a Federica Angeli, giornalista di Repubblica, anche per il suo racconto, e naturalmente in bocca al lupo per il suo lavoro e per la sua vita. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, bentornato ai nostri microfoni. Buon pomeriggio. Con noi per parlare di queste elezioni di metà mandato che per Barack Obama potrebbero riservare cattive sorprese, anche se, come abbiamo raccontato nei nostri titoli, i democratici sono sfavoriti, però 5 seggi sono troppo in bilico anche per i sondaggisti. Fatto sta, Magri, che è un referendum su Obama questo. È un referendum su Obama, che Obama affronta con una popolarità bassissima, che a livello mondiale lo batte solo Hollande in questo momento, e quindi la sconfitta annunciata potrebbe essere reale. C'è da dire che quasi sempre il partito del presidente che governa viene punito nel midterm, è una modalità che hanno gli americani per lanciare dei segnali al governo che hanno a quel momento, però in questa volta c'è un messaggio in più che è appunto quello del referendum su un presidente che sta scontentando un po' tutti, anche parte dei democratici. Senta Magri, a cosa può condurre, come dire, la famosa anatra zoppa, no? Il mandato dimezzato per i prossimi 2 anni? Le chiedo, in quanto esperto di questo, soprattutto in termini di politica internazionale. Le anatre zoppe sono frequenti nella storia delle presidenze americane, e in alcuni casi le anatre zoppe hanno fatto meglio che nei periodi precedenti. Pensiamo agli ultimi 2 anni di Bush, dove corresse fortemente il tiro e si allontanò dal vicepresidente Cheney e da Karl Rove, e ebbe una postura meno assertiva in politica internazionale. Cosa può fare Obama in questo momento? Cercare di utilizzare un po' di più decreti presidenziali e delle forze che comunque la Costituzione gli dà, può modificare un po' il team, soprattutto i fedelissimi attorno a sé. Certo, affronterà delle sfide a breve, tipo il negoziato sull'Iran, se venisse confermato ciò che ci aspettiamo sulle elezioni di oggi, affronterà queste sfide, questi negoziati ancora più debole proprio sulla politica estera. Questo è il punto nuovo e essenziale. Obama venne eletto quando l'economia era l'interesse principale degli americani, ha fatto molto bene nell'economia, ha recuperato tutto il terreno perso con la grande crisi, ma i temi di adesso sono di politica estera, ed è sulla politica estera che, nonostante il Nobel, sta deludendo nel rapporto con la Russia, sta deludendo nel pivot sulla Cina, sta deludendo soprattutto nella gestione di ISIS e di Siria e di Iraq, perché questo problema, quest'area del mondo è di fatto per Obama una dimostrazione, questo dicono i suoi avversari, della sua debolezza, della sua essere un divago. Aveva detto che il terrorismo era sconfitto e poi è riapparso sottostimato e si è dovuto intervenire. Aveva detto che in Siria non si poteva intervenire, l'ha detto per 2 anni, poi ha deciso di intervenire, ma quando ha deciso di intervenire i russi l'hanno bloccato, ora interviene, ma interviene di fatto contro i nemici di chi voleva colpire. E infine l'Iraq non ha le colpe sulla crisi irachena iniziale, questo è il suo predecessore, ma lui ha fatto il ritiro delle truppe e ora c'è necessità di ritornare per fermare il caos. Su questi 3 temi, Siria, ISIS e Iraq, attaccano i repubblicani, perché sanno di poter dimostrare che lui è un divago, è debole e soprattutto non è il chief commander che gli americani vogliono avere. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi ancora una volta. Una pausa, ci ritroviamo per la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un gruppo di precari calabresi ha bloccato l'ingresso di traghetti privati a Villa San Giovanni. L'italiana Fabiola Giannotti è stata scelta come direttore generale del CERN di Ginevra. La Commissione europea lancia un nuovo allarme per i conti pubblici italiani e sulla Germania dice deludente la crescita. L'estremismo è una minaccia reale, parole di Napolitano nel giorno della festa delle forze armate. Appalti pilotati per le concessioni delle spiagge, operazione contro la criminalità sul litorale romano. La borsa. Borse in diretta. Borsa negativa, meno 0,6% il FTSE MIB, meno 0,6% anche il FTSE All Share, anche se la mattinata era partita bene. Parigi cede lo 0,22%, Francoforte guadagna lo 0,2% e Londra è in perfetto pareggio in questo momento. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, come mai va male Milano? Ma le borse appunto erano partite discretamente, ora pagano il taglio delle stime sulla crescita da parte della Commissione europea, cautela anche in attesa per le elezioni americane di metà mandato, oltre che per l'attesa della riunione Banca Centrale Europea di giovedì. Questo il calo complessivo. Per quanto riguarda i singoli titoli, Monte dei Paschi ancora bene, più 8,43%, e delle motivazioni ne abbiamo parlato, l'arrivo a breve dell'aumento di capitale, della ricapitalizzazione. Saipem meno 3,07%, continua a soffrire. Sì, Saipem continua a soffrire della flessione del prezzo del greggio con la varietà WTI che è in rosso del 2,6%, oggi è $76.7 al barile. Il calo del greggio pesa anche su Eni che cede l'1,8%. Infine, a due giorni dall'inchiesta di Report, Moncler cede l'1,14%, è il secondo giorno di calo consecutivo. Sì, è il secondo giorno di calo consecutivo, dopo appunto l'inchiesta di Report. È debole peraltro tutto il settore del lusso, con Salvatore Ferragamo che cede il 2%, Tod's l'1,7%. Il settore è colpito anche dal taglio delle stime da parte di Hugo Boss, che cede il 5% a Francoforte. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Dopo gli scontri di Roma durante la manifestazione, il corteo degli operai delle acciaierie speciali Terni, si sta ragionando su nuove regole per la gestione delle manifestazioni di piazza. Sentiamo quali sono le indiscrezioni che circolano secondo due quotidiani, Il Messaggero e Il Corriere della Sera. Evitare il più possibile il contatto fisico, ricorrere a spray urticanti e pistole elettriche contro i manifestanti. Sono alcune delle nuove regole previste in una sorta di testo unico per la polizia che i tecnici del Viminale stanno studiando. Mentre si riaccende la polemica per quanto accaduto il 29 ottobre durante la protesta degli operai della ThyssenKrupp a Roma, i vertici della polizia diffondono la notizia attraverso Il Messaggero e Il Corriere della Sera che verranno varate nuove regole d'ingaggio. Il provvedimento riguarderà tutte le attività della polizia, ma l'attenzione è puntata sul capitolo dedicato ai cortei. Nulla però è stato ancora varato, tutto è allo studio del Viminale, poi valuteranno i sindacati che sono già spaccati. Questo mentre da più parti si chiede conto proprio al prefetto delle immagini mostrate da un video della trasmissione televisiva Gazebo, sempre sugli scontri al corteo degli operai di Roma, dove si vede e si sente chiaramente un agente ordinare ai poliziotti di caricare i manifestanti. Tutto questo alla vigilia del voto sulla sfiducia al ministro dell'Interno Angelino Alfano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Felice Romano, segretario del SIULP, che è un sindacato di polizia, il principale per numero di iscritti. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Che le pare di queste nuove ipotesi di regole che stanno circolando? Guardi, intanto mi lasci precisare una cosa. Non è assolutamente fondata la notizia che queste nuove regole siano il frutto di quanto accaduto l'altro giorno con gli operai della ThyssenKrupp. È un anno e mezzo che il Dipartimento, su pressione anche del sindacato, perché noi stiamo chiedendo ad esempio l'utilizzo delle telecamere sulle uniformi per tutti i colleghi che operano in ordine pubblico e fanno controllo del territorio a partire dalle volanti che fa il 113 e per avere delle indicazioni su come comportarci in determinate condizioni. È solo un caso che questo lavoro arrivi in concomitanza con quanto avvenuto l'altro giorno. Non c'è stata un'accelerazione? No. Assolutamente no, anzi siamo molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia che il capo della polizia ci aveva annunciato un anno e mezzo fa. Questa roba doveva essere pronta già a dicembre dell'anno scorso, ma attesa la delicatezza nell'andare a definire quali sono le norme comportamentali, le cosiddette regole d'ingaggio, per dare un termine molto più altisonante che è comprensibile a chiunque ci ascolti, è chiaro che di fronte alla necessità di garantire sicurezza e libertà, rispetto delle regole e delle leggi, ma anche dei diritti costituzionali, quali quello a manifestare, quale quello alla mobilità o a vivere il territorio, per chi invece non manifesta e si trova coinvolto dalla manifestazione, non è una cosa molto semplice. Ecco perché si sta ragionando su questa ipotesi che ci verrà sottoposta giorno 6 e che riguarda il comportamento ma anche l'utilizzo di alcuni strumenti e di alcune armi non letali, quali ad esempio lo spray urticante, quale ad esempio l'idrante, oltre ai gas lacrimogeni e al manganello, che sono già armi non letali. Senta, la convince l'ipotesi che sta circolando, posto che naturalmente il 6 novembre avrete dettagli ulteriori? Ma guardi, sicuramente noi siamo concordi sul fatto che si vadano a stabilire nuove regole nell'interesse della democrazia e delle leggi, né dei poliziotti né dei manifestanti, dove si possa discutere a chiare lettere chi può fare che cosa e quali sono le responsabilità nel momento in cui si va oltre quelle cose che è stato stabilito che si possono fare. Questo vale sia per i manifestanti che per gli operatori delle forze dell'ordine. In questo, prevedere ad esempio la cosiddetta zona franca o zona di sicurezza per evitare che forze dell'ordine e manifestanti vengano a contatto è un'ipotesi sicuramente positiva. Prevedere l'utilizzo degli idranti, come è stato fatto a Napoli, e non comporta il venire a contatto tra forze di polizia e manifestanti, è un altro fatto importante. Sicuramente l'aspetto più importante è come dire, la telecamera ha su ogni uniforme di tutti i colleghi che parteciperanno a questi servizi al controllo del territorio, perché questo sarà sicuramente un effetto deterrente sia per chi vuole andare verso le forze dell'ordine, sia per chi, stando nelle forze dell'ordine, dovrà affrontare le situazioni di criticità, sapendo che tutto viene registrato e custodito a disposizione dell'autorità giudiziaria, che poi è l'unico giudice terzo rispetto al quale tutti ci dobbiamo inchinare e prendere atto rispettando le decisioni. Abbiamo 30 secondi, Romano. A proposito invece del fatto di cronaca in sé, di queste nuove immagini che sono circolate, la sua impressione è che qualcuno abbia sbagliato in quella piazza tra i suoi colleghi o tra i dirigenti? Guardi, sicuramente c'è stata, come dire, l'ingenuità di cadere nella provocazione. Però gli altri viti... Cioè nella provocazione degli operai, dice lei? Non degli operai, da parte di chi poi ha ricavato un ruolo politico preminente da quegli scontri. Cioè lei dice Landini ha provocato, questo sta dicendo? No, io sto dicendo che dopo quegli scontri, dove dei video dimostrano che una parte dei manifestanti vanno verso le forze di polizia che erano da un lato della strada, qualcuno è stato ricevuto prima al Viminale e poi a Palazzo Chigi. Questo è un dato politico che emerge e poiché noi conosciamo la FIOM, conosciamo Landini, con il quale sono 30 anni che si gestiscono le piazze e si gestiscono manifestazioni anche più delicate di queste, io credo che sia interesse di tutti far fare gli accertamenti all'autorità giudiziaria che come sempre ci darà la verità, che è quella giudiziaria, non quella assoluta, che farà, che metterà la parola fine a tutte le strumentalizzazioni mediatiche, ma soprattutto partitiche, che in questo momento si stanno facendo su quella vicenda e su quel fatto. Grazie a Felice Romano, segretario generale nazionale del SIULP. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Martedì 4 novembre, elezioni americane, ne abbiamo parlato ieri, ho dato un po' un quadro di questa America, un'America incerta che molto probabilmente oggi finirà col restituire al Partito Repubblicano la maggioranza al Senato, c'è già una maggioranza repubblicana alla Camera e dunque le elezioni di oggi sono importanti perché se le cose andranno come i sondaggi sembrano indicare, beh, ci sarà uno split, una spaccatura tra un Parlamento repubblicano e una Casa Bianca democratica. Vorrei oggi invece dedicare la puntata a uno degli elementi che secondo me ha caratterizzato anche queste elezioni, e cioè, come dire, alla mancanza di un ruolo forte dello Stato, soprattutto dal punto di vista, per esempio, assistenziale, cioè lo Stato sociale è in difficoltà. Ho con me ai microfoni di America 24, Letizia Moratti. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Eccoci, Letizia Moratti non ha bisogno di presentazioni, ex sindaco di Milano, ministro dell'educazione, importante politico nel nostro paese che si occupa naturalmente, come sapete, soprattutto con San Petrignano, ma in altri modi, di filantropia e di economia sociale. Ed è qui a New York perché, pensate, alle Nazioni Unite ci sarà fra poche ore un incontro della seconda commissione che sarà dedicato alla finanza sociale, che è così, è una nuova via per cercare di rispondere ad alcune delle problematiche che noi abbiamo. Intanto, scusi, approfitto di lei, un giudizio politico su questo momento americano. Ma io credo che in America, come in tutti i paesi, siamo di fronte a una crisi dello Stato sociale, così come l'abbiamo conosciuto fino adesso. E questa crisi ovviamente può anche ripercuotersi nelle elezioni. Per questo motivo credo che debbano essere studiati degli strumenti alternativi che possano far sì che gli stati continuino a far fronte alle esigenze. Per esempio in Italia c'è un gap tra la capacità da parte dello Stato italiano di erogare servizi di pubblica utilità assistenziali e la necessità di questi servizi di 171 miliardi di euro stimati da qui al 2025. Oggi mi sembra che c'è una svolta importante alle Nazioni Unite con questa sessione dedicata alla finanza sociale, a cui lei partecipa, ed è la prima volta che le Nazioni Unite affrontano questo tema, se non sbaglio. È la prima volta che le Nazioni Unite affrontano questo tema ed è un tema che è stato affrontato dalla Task Force del G8, il G20 l'ha messo in agenda per le prossime riunioni, e quindi la cosa importante è che adesso c'è questo salto, e quindi non sono solo i paesi G8 o i paesi G20, ma le Nazioni Unite si fanno carico di capire come e quali strumenti mettere in atto per le sfide planetarie che abbiamo di fronte. Qual è il passo in avanti rispetto alla filantropia tradizionale che si compie con questa finanza sociale? Il cambio è un cambio culturale profondo ed è dato dal mettere insieme attori diversi, quindi le agenzie multilaterali, i governi locali e centrali, le imprese profit e non profit, pubbliche e private, le organizzazioni, le cooperative o le imprese sociali, perché insieme con questi nuovi strumenti possono appunto far fronte a queste sfide. Quali sono gli strumenti? Ma gli strumenti sono tanti, sono diversi. Per esempio le borse sociali, no? Invece di avere delle borse, gli stock exchange, delle borse, esistono ormai le borse sociali, cioè quelle borse che tengono conto anche degli impatti sociali e non solo degli impatti di tipo economico. Ecco, un esempio. Singapore, per esempio, piuttosto che la borsa inglese, il social stock exchange inglese, offre delle azioni su una piattaforma telematica, offre azioni di imprese sociali, cioè imprese che non hanno solo come obiettivo quello di fare profitto, ma hanno come obiettivo quello di fare profitto, magari un profitto meno significativo, ma anche un impatto sulla comunità di appartenenza. Che tipo di vantaggi a chi ha investito? Perché se io investo in un'azione, un profitto mi ritorna. In quel modo che ritorno c'è da questo investimento? Il ritorno è un ritorno che non è solo un ritorno di investimento, ma è un ritorno sociale. Faccio alcuni esempi. In Rajasthan si stanno sviluppando delle obbligazioni sociali per far fronte all'abbandono scolastico delle giovani donne, che in Rajasthan è del 40%. Lo Stato di New York e la città di New York hanno emesso delle obbligazioni sostenute poi da banche di investimento per far sì che ci sia un calo della recidiva dei prigionieri, con un vantaggio per lo Stato perché spende meno, con un vantaggio per i prigionieri perché hanno dei programmi di reinserimento, e con un vantaggio per gli investitori perché, se sono raggiunti i risultati, hanno un beneficio in termini di ritorno e quindi di profitto. A che punto siamo da noi? Beh, in Italia abbiamo un terzo settore che è molto sviluppato, che dà lavoro a tante persone, che dà risposte sociali importanti, siamo un pochino arretrati sugli strumenti innovativi di finanza sociale, ma ci stiamo lavorando con diversi attori pubblici e privati e credo che per esempio l'Italia potrebbe dare un contributo addirittura anche alle Nazioni Unite, per esempio quello che io porterò oggi alle Nazioni Unite, che sarà quello di istituire l'anno dell'economia e della finanza sociale per poter creare un ecosistema in tutti i paesi finalizzato a mettere in campo tutte le risorse anche attraverso partenariati pubblici privati, profit e non profit, per far sì che tutti insieme si riesca ad avere delle risposte ai bisogni e alle necessità che in tutti i paesi stanno emergendo e sono emerse e rispetto alle quali i paesi da soli, le organizzazioni non profit da sole, ma anche le agenzie multilaterali da sole non sono più in grado di dare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me ancora la signora Moratti. Cosa scegliamo? Smile, beh, di Michael Jackson. If you smile with your fear and sorrow, smile. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani con i risultati elettorali americani. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Se volete scriverci effettogiorno@radio24.it, ma c'è anche la nostra pagina Facebook. Ci risentiamo tra un attimo con GR24, la trasmissione torna domani alle 13.